Siamo in diretta telefonica con Cristina dell'organizzazione egiziana che durante la repressione dell'insurrezione che c'è stata in Egitto nel 2011 è stata sottoposta al test di verginità. Noi sappiamo che Rasha è lì con te, potete dirci qualcosa in più rispetto a questo episodio? Allora, diciamo, Rasha è andata via. Comunque, allora, la cosa che vi posso dire è che abbiamo organizzato, insomma, deciso di organizzare questa settimana per parlare dell'Egitto e che casualmente è caduta proprio nella settimana del processo che adesso siamo qui all'Aquila contro lo stupro avvenuto da parte di un militare nei confronti di una ragazza in una discoteca, al fuori da una discoteca. Scusate. Per cui so che insomma state facendo anche la diretta. E quindi una settimana, diciamo, proprio per parlare della militarizzazione che ci stiamo subendo, che subì l'Egitto anche molto più dell'Italia, e militarizzazione che ovviamente va tantissimo contro i corpi delle donne. Lo stesso sta avvenendo e avviene in Egitto. Una delle prime cose che sono state fatte anche con il nuovo governo in Egitto è stato proprio quello dei test delle virginità alle militanti, alle compagne. Piuttosto che processi, tanti processi che sono stati fatti nei confronti e contro le donne, che sono state quelle che anche hanno subito tantissimo, quasi subito, la repressione prima delle forze armate, diciamo così, dell'esercito e adesso del nuovo governo in Egitto. Quindi insomma la venuta di Rasha poteva essere un modo per parlare proprio di questo, che vuol dire che i territori sono militarizzati, che vuol dire che l'esercito piuttosto che le forze di polizia presidiano i nostri luoghi, come è questo, in questo caso il territorio dell'Aquila, come può essere la Val di Susa, e come questo porta a una violenza maggiore nei confronti delle donne, non a caso che avvengono insomma proprio le violenze anche nei confronti dei corpi delle donne, e che sono le prime insomma che subiscono questo da una parte. Dall'altra si voleva parlare, si parlerà con Rasha soprattutto nella giornata di oggi, di quello che è invece, che sono invece le pratiche di lotta delle donne. Le donne nelle lotte ci sono, scendono in piazza, nei processi rivoluzionari sono protagoniste, e capire insomma come queste lotte poi possano, ci si può scambiare e ci si può confrontare su queste pratiche di lotte, se sono proprio le nostre, se le pratiche che portiamo avanti sono quelle invece che ci perdiamo nella massa o nelle parole generali, se le parole d'ordine delle donne sono presenti nei processi rivoluzionari, nei processi di piazza, eccetera. Quindi insomma con Rasha parleremo oggi in particolar modo, visto che è una iniziativa che facciamo con appunto il collettivo femminista Le Ribellule, in un luogo che è quello della Sala da Tè, di un posto occupato, che è un'ex caserma appunto di Roma, occupata dal coordinamento cittadino di lotta per la casa, dove ci sono insomma tante migranti, dove la sala da tè è gestita proprio dalle donne dell'occupazione, insomma. Quindi vorremmo in qualche maniera cercare di confrontarci oggi su questo, che ci sembra un argomento molto importante. Sì, sappiamo che in Egitto durante l'insurrezione che c'è stata le donne sono state molto determinanti e molto forti, e anche nello specifico ho qui la notizia di una manifestazione che rimarrà nella storia, di 100.000 donne in reazione alla violenza sessista dopo la pubblicazione delle foto della ragazza che... trascinata per strada. Esattamente, sì. Beh, diciamo che sicuramente Rasha insomma ce l'ha raccontato, le donne sono protagoniste, sono state protagoniste, e sono quelle che adesso stanno anche subendo diciamo così anche delle forme più di repressione, non soltanto perché in questo momento c'è uno scontro in atto soprattutto insomma a Piazza Tahrir molto forte, con tutta la parte dei fratelli musulmani, quindi con una parte religiosa che vuole costringere insomma ritornare a un modello conservatore molto forte, e quella che sono stati dei processi invece un po' più di libertà, di richieste di libertà maggiori e via dicendo. Quindi sicuramente insomma in questo le donne sono protagoniste, l'abbiamo visto tante volte, cioè le foto che ci sono arrivate dall'Egitto sono state di tante donne, e non è un caso appunto che anche lì i militari se la siano presa tanto con loro. Quindi insomma oggi spero che riusciremo a confrontarci su questo, su quelle che sono le pratiche di violenza, via dicendo, dei territori militarizzati, ma anche di quelle che sono le pratiche poi di lotta, perché comunque le donne appunto ci sono, capire come si possono unire queste lotte anche in tutto il Mediterraneo e per, insomma, per portarle poi ognuna nei propri territori. Bene Cristina, anche perché lei fa parte anche proprio di una campagna che si sta svolgendo insomma, in Egitto, proprio contro i processi che stanno facendo militari ai civili che sono stati arrestati, e quindi insomma diciamo che anche tutta questa questione che adesso gira molto in Egitto sulla questione dell'amnistia, girata sui giornali eccetera, in realtà molte delle persone più politiche sono già uscite dal carcere proprio grazie a queste grosse campagne che loro hanno fatto, e sono rimaste in realtà delle persone arrestate durante le rivolte di Piazza Tahrir, ma non per fatti diciamo così di piazza, perché e sono tantissimi, e quindi quelli continuano a rimanere perché non gli sono stati riconosciuti casomai i casi di appunto di piazza e via dicendo, e quelli rimangono, continuano a rimanere in carcere, e l'amnistia per loro non ha nessun valore, quindi insomma loro continuano a avere a portare avanti un processo diciamo così di osservazione molto grosso su tutto questo, anche nelle aule dei tribunali. Sì, per chi volesse saperne di più, approfondire, ho qui sotto mano il nome della campagna di cui parlavi tu, no? Sì. Military Trials for Civilians. Sì. Invece per sì. quanto riguarda l'argomento presidio, l'Aquila, sì. Ci puoi aggiornare? Adesso l'assemblea. Allora, non so se abbiamo fatto un po'. Vi hanno raccontato, immagino, se volete vi faccio un riassunto di quello che è stata l'udienza di oggi, che ancora non è finita e si sta proseguendo. L'udienza è stata ritenuta dal giudice per richiesta della parte diciamo così per il Tuccia, insomma dello stupratore, i suoi avvocati hanno richiesto il giudizio immediato, per cui per obbligo il giudice ha dovuto chiudere l'aula, obbligatoriamente doveva essere a porte chiuse, per cui siamo dovute uscire comunque dall'aula, dentro erano rimaste tanto le donne del centro antiviolenza qui dell'Aquila per questa richiesta che hanno portato avanti di costituzione di parte civile. Questa richiesta di costituzione di parte civile è stata accolta dal giudice in una forma insomma in cui anche diciamo anche un po' stupite, visto che ci hanno detto che in tutta Italia sono solo 5 casi in cui il centro antiviolenza sono stati accettati come parte civile. Questo secondo noi è anche avvenuto perché la famiglia ha rinunciato a costituirsi parte civile per permettere proprio al centro antiviolenza di esserlo. E devo dire che insomma la cosa un po' ci ha anche rincuorate, perché è un'aula di tribunale in cui la donna, cioè stuprata, la ragazza eccetera, è anche l'unica donna in tutta l'aula, insomma, quindi un processo brutto, insomma, come tanti ne abbiamo vissuti e tanti ne sono stati raccontati, in cui insomma, anche le aule di tribunale diventano dei luoghi pesanti per le donne, soprattutto che appunto sia il giudice che gli avvocati eccetera sono tutti comunque maschi. Il fatto che ci sia il centro antiviolenza è un supporto psicologico e morale secondo noi insomma non indifferente, per cui in questo poi si è fatta un'assemblea fuori in attesa che per cui vabbè, sono stati, adesso ci stanno continuando ad ascoltare i testimoni, perché il processo essendo di giudizio immediato sarà molto veloce, si parla addirittura che in 2-3 mesi dovrà finire, quindi oggi hanno iniziato proprio a sentire anche i testimoni e probabilmente i carabinieri, cose così. Noi abbiamo fatto questa assemblea in cui insomma si è un po' rafforzata questo rapporto anche con i centri antiviolenza dell'Aquila, con le compagne di Roma che avevano organizzato comunque anche questo presidio, e si è deciso di convocare per il 28 ottobre un'assemblea nazionale a Roma per decidere come portare avanti con la manifestazione nazionale il prossimo 25 novembre. Ci sono state delle proposte di poterla fare all'Aquila, che è sicuramente in questo momento un territorio di cui che ha bisogno di un supporto delle donne anche rispetto a questo processo, ma anche per tutta appunto la militarizzazione che c'è qua, che è molto pesante, che c'è sempre stata, ma in questo dopo il terremoto comunque, che l'Aquila non dimentichiamo, c'è pur sempre due caserme, è una città molto conservatrice, però dopo il terremoto ovviamente ci stanno pattuglie ovunque, fermi ovunque, ci sono le discoteche piene di militari, è un clima pesante. Quindi vediamo insomma in questa assemblea che ci sarà il 28 ottobre di riuscire a capire se ci sono le condizioni oppure no di fare una manifestazione qua, perché ancora non è comunque un territorio facile, ecco, dove poter fare una manifestazione, perché oggettivamente non c'è un centro, è tutto molto dislocato e via dicendo. Bene, continueremo a seguire le vicende processuali e non soltanto quelle del processo, ovviamente. E Cristina, ti ringrazio per il collegamento. Prego, io l'ultima cosa che volevo dire è che il giudice ha accolto anche che i capi di imputazione nei confronti del Tuccia fossero sia di violenza sessuale che di tentato omicidio. All'inizio si parlava soltanto di tentato omicidio, insomma parlare anche di violenza sessuale è sicuramente importante, perché insomma, questa ragazza non è stata soltanto... hanno cercato, insomma, sì, ovviamente di ucciderla, si può parlare più di omicidio quasi che di tentato omicidio, ma c'è stata una violenza sessuale, c'è stato uno stupro, che nelle aule di tribunale in qualche maniera le parole si riportino e che la gente venga, i maschi vengano additati come stupratori, insomma ha una forza secondo me maggiore, per cui questo era un altro elemento che era stato accolto dal giudice. Bene, Cristina, ti ringraziamo, ringrazio a tutte le compagne presenti, sì, al presidio, voi, e un abbraccio fortissimo anche alla ragazza presente in aula. Grazie a voi. Ciao Cristina. Ciao, ciao. Ciao.